I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Abbiamo tutti ascoltato o letto le parole del presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. Mattarella si è soffermato sul tema del lavoro, dell'occupazione, che ha detto è tornata a crescere, ma questo andamento positivo non ha ancora messo fine alle difficoltà in cui molti si trovano. Inevitabile il riferimento ai giovani, perché è chiaro che in questa fase sono soprattutto i giovani a pagare una ripresa troppo timida del mercato del lavoro. Bene, ieri sono arrivate da Eurostat, l'agenzia di statistica dell'Unione Europea, alcuni dati che rendono ancora più attuali le preoccupazioni del Presidente della Repubblica e che dicono che talvolta neppure la preparazione, neppure un percorso di studi, persino il talento riescono a sbloccare questa situazione. In Italia, a 3 anni dal momento del conseguimento della laurea, ha un'occupazione poco più del 50% dei laureati. Solo la Grecia fa peggio dell'Italia, mentre è molto superiore la media di altri paesi. Siamo intorno all'80%, ma attenzione a concludere che la laurea non serve per trovare lavoro, perché tra i diplomati la situazione è ancora peggiore. A 3 anni dal diploma gli occupati sono solo il 30%, che diventa il 40% per chi ha un diploma professionale. Complessivamente le persone tra i 20 e i 34 anni che sono uscite da un percorso formativo e che hanno lavoro sono in Italia solo il 45%. Contro la media europea del 76%. Inutile dire che anche in questo caso siamo maglia nera in Europa e che, per chi si accontenta, facciamo meglio solo della solita Grecia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Oggi arrivano dall'Istat dati incoraggianti sul mercato del lavoro che indicano un clima migliore rispetto alle ultime rilevazioni. Anzi, i dati sono tanto incoraggianti da meritarsi anche un tweet del presidente del Consiglio. Renzi ha commentato scrivendo che la disoccupazione, che continua a scendere, a novembre è l'11,3%, livello più basso da 3 anni a questa parte, è la dimostrazione che il Jobs Act, la riforma del lavoro, sta funzionando. C'è effettivamente un dato importante che forse può restituire un pizzico di ottimismo: l'andamento del numero di persone occupate, di chi effettivamente lavora. Dopo 2 mesi negativi, a novembre gli occupati sono tornati a crescere, sono stati 36.000 in più rispetto a ottobre e circa 206.000 in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione complessivo è cresciuto ed è arrivato al 56,4%. A che cosa è dovuta questa crescita? Beh, l'elemento più importante è l'aumento dei dipendenti con contratti stabili, il che ha una spiegazione ed è il segnale di come molte imprese che avevano in programma di assumere abbiano voluto beneficiare dell'esonero contributivo che concede alle imprese uno sconto fino a 8.060 euro all'anno per 3 anni per le assunzioni fatte nel 2015. Da quest'anno il bonus si riduce a 3.250 euro per soli 2 anni, per cui vedremo se i segnali incoraggianti giunti oggi dall'Istat verranno confermati anche nei prossimi mesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.